Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno, buona domenica. Domenica particolare quella di oggi perché è la domenica della maratona di New York, evento che accende un po' in tutti la voglia di mettere in calendario la propria impresa, mentre noi quando pensiamo alla maratona pensiamo ai consigli del coach Fabio Vedana, che oggi è qui con noi. Ciao Fabio, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora Fabio, molti runner oggi, grazie alla spinta probabilmente mediatica anche che arriva da oltreoceano, inizieranno a pensare alla maratona. Molti avranno già preparato probabilmente qualche 10 km o qualche mezza maratona. Quali sono le principali differenze nella preparazione tra una corsa di media distanza e una maratona? Tanto, ci sono tante differenze, soprattutto il chilometraggio. E come dico anche per quelli che si affacciano per la prima volta all'Ironman, che è un po' okay. la mia distanza di elezione, il mezzo Ironman, l'Ironman non è il doppio mezzo Ironman, come la maratona non è la doppia mezza maratona, che è l'errore più grosso che si può fare, è pensare che ho fatto una mezza maratona, ne aggiungo un'altra e arrivo alla maratona. Proprio perché ci sono delle barriere metaboliche importanti che vanno ben allenate durante tutta la fase di preparazione. E quindi pensare di aver fatto una mezza maratona e quindi allungo un po' le distanze, faccio qualche lungo e sono pronto per i 42 km 195 metri è una vana speranza. Okay. Quindi come andrebbe strutturato insomma un allenamento per una maratona? Bisogna soprattutto lavorare sulle filiere metaboliche, cioè lavorare sulla capacità del nostro corpo di produrre energia attraverso l'utilizzo dei grassi, e per far questo dobbiamo inserire molti allenamenti a quelle intensità lì. L'errore che fa normalmente il neofita è proprio quello che pensa di mantenere le intensità in allenamento che fa per il 10.000, per la mezza maratona, anche per preparare la maratona. Invece bisogna avere il coraggio di andare a correre più lentamente per abituare il corpo ad utilizzare quelle filiere energetiche lì. È il segreto, tra virgolette, che ci permette di arrivare in fondo bene e di non strisciare gli ultimi chilometri proprio perché non abbiamo più benzina nei muscoli e quindi abbiamo proprio una sensazione di disorientamento che non ci fa godere il bello di fare un percorso come quello di andare a fare la maratona, perché il bello è arrivare in fondo consapevole della bellezza della finish line, perché se invece arrivo e sono suonato ci perdiamo tutto insomma. Infatti quindi quanti chilometri a settimana circa? Anche lì il chilometraggio va aumentato in maniera graduale. È un errore veramente importante quello, è grosso quello di fare degli aumenti repentini del chilometraggio, cioè sono abituato a correre 30 km, comincio a correre 60 km, è un aumento, è il raddoppio quasi del 100%, quindi bisogna sempre fare aumenti graduali, 10-15% a settimana l'aumento che il nostro corpo è in grado di sopportare, che crea adattamento perché altrimenti crea distruzione, non adattamento. E anche allenamenti a digiuno vanno bene? Sì, quelle sono tecniche più raffinate, quello di introdurre anche un allenamento quindi senza la colazione per stimolare quell'utilizzo di quella filiera energetica. Però innanzitutto c'è un aumento della distanza che riesco a correre, più che della distanza, del tempo. Guardiamo il tempo più che la distanza. Solitamente il maratoneta e il neofita controlla sempre i chilometri, mentre quello che è il bersaglio all'interno delle zone metaboliche è il tempo di utilizzo di queste. Quindi è importante lavorare ragionando per tempo. Quindi quando strutturiamo magari i lunghi, che sono quelle percorrenze oltre 30 km, dobbiamo pensarlo in ordine di ore, tempo, diciamo, più che di chilometri. Perché nel chilometro lo influenziamo troppo poi con la velocità, mentre il tempo noi sappiamo, dobbiamo fare 2 ore e mezza, facciamo 2 ore e mezza. Non interessa se faccio 25-35 magari. E poi è importante anche il riscaldamento ed il faticamento, no? Sì, diciamo che il warm up e il cool down, cioè con la terminologia un po' internazionale, sono importanti se faccio un allenamento importante. Se invece faccio un allenamento a bassa intensità non è così determinante, perché il riscaldamento è fondamentale per portare i muscoli e tutto l'organismo alla temperatura di esercizio ottimale per poter poi svolgere il lavoro centrale, okay. Che solitamente se faccio un lavoro con variazione di ritmo, se faccio un lavoro di ripetute, se faccio un lavoro intermittente, se faccio un lavoro sulla forza, se faccio un lavoro a intensità media, allora è importante portarlo alla temperatura e anche gradualmente alla intensità e alla tensione muscolare per fare questo allenamento. Quindi se faccio invece un allenamento a intensità bassa, il riscaldamento è abbastanza superfluo, come anche il defaticamento. Invece è ancora più importante del defaticamento se faccio un allenamento ad alta intensità, perché è un prodromo, cioè è un anticipatore di quello che è poi il tempo di recupero. È stato studiato che se si fanno almeno dai 5 ai 10 minuti di cool down dopo un allenamento intenso, innesco prima la fase di recupero, che poi è un po' tutto il segreto per poter costruire un processo di allenamento duraturo, è quello di fare stimoli adeguati e recuperi completi. Tu hai parlato di ripetute, nella maratona le dobbiamo utilizzare come allenamento, e come vanno fatte? Dipende sempre dal livello a cui parto. Sicuramente la ripetuta è uno stimolo di alta intensità o di intensità sotto massimale che ci permette di avere degli adattamenti importanti, che sono adattamenti soprattutto sia a livello muscolare, quindi periferico, che centrale. Quindi anche lì dipende dal livello a cui sono. Sicuramente se la faccio ad alto livello, le ripetute sono un mezzo di allenamento indispensabile. Se sono un neofita che vuole solamente arrivare alla finish line, la ripetuta va utilizzata come un farmaco molto potente. Ecco, mi piace appunto la metafora del farmaco, è molto potente, quindi va prescritta con la giusta posologia e con anche i tempi di recupero, perché anche i tempi di recupero sono fondamentali nei lavori intervallati, cioè come le ripetute o l'intermittente o l'interval training. Quindi magari è più preferibile per un neofita lavorare col fartlek, che sono delle variazioni. Il fartlek nasceva naturalmente dai mezzofondisti del nord Europa, che lo utilizzavano proprio perché correndo naturalmente nel loro territorio che è vallonato facevano le variazioni di ritmo seguendo l'ondulazione del terreno. Quindi quello è meno d'impatto e meno potente come farmaco da utilizzare, quindi come stimolo da indurre, e quindi potrebbe per un neofita essere la porta d'ingresso verso questi tipi di allenamento qualitativi. Quindi ripetute, fondamentale poi il recupero. E il recupero si può fare anche in un altro modo, andando in bicicletta, facendo qualcosa d'altro, nuotando, insomma. Ivana, tu sposi con me proprio un mio mantra, che è quello appunto del cross training, cioè del fatto che nell'allenamento della resistenza è importante anche variare lo stimolo, no? Quindi se abbiamo la possibilità di non correre solamente, ma di variare lo stimolo dell'endurance, della resistenza, anche con la bicicletta, che è un'attività non in carico e quindi non grava troppo sull'articolazione, sulla muscolatura, perché appunto sono seduto sulla bici, mi permette di aumentare però tutti gli adattamenti centrali, quindi l'aspetto cardiocircolatorio, quello respiratorio, e quindi è importante perché mi permette di continuare a dare uno stimolo al mio corpo e permettendo anche di accelerare il recupero da allenamenti più qualitativi. Anche il nuoto, perché anche il nuoto, se uno sa nuotare, quindi se ha una sufficiente tecnica natatoria, anche il nuoto, che è ancora più in scarico che la bici, ci permette ulteriormente di sviluppare gli adattamenti centrali e migliorare anche i tempi di recupero. E in che modo la dobbiamo utilizzare la bicicletta? Qual è l'andatura che dobbiamo tenere? Allora, innanzitutto sulla bicicletta, se devo avere una bicicletta idonea alla mia antropometria, cioè non deve essere troppo alta, non deve essere troppo corta, la regolazione dell'altezza della sella è importante, perché se ho una sella regolata male lavoro muscolarmente in maniera differente, che può essere anche controproducente. Quindi la prima cosa è avere una regolazione della sella idonea. Mi posso far vedere da un amico, mi posso far vedere da un mio compagno di allenamento un po' più esperto, che cerca di regolarmi la sella nella maniera più appropriata. E poi il consiglio è di lavorare a un'intensità bassa, cioè l'intensità deve essere sempre, anche qui, che mi permetta di facilmente dialogare con il mio compagno. E l'altra cosa è la frequenza di pedalata, perché nella bicicletta ho un altro parametro che è proprio quello della frequenza di pedalata, cioè del numero di giri che faccio al minuto con il pedale. Anche qui, contrariamente a quello che il pensiero comune, cioè di andare agili, cioè con una frequenza di pedalata alta, quando sono neofita e quando utilizzo la bici come supporto alla preparazione della corsa, è importante invece andare a una frequenza di pedalata abbastanza bassa, che sia simile a quella che è la frequenza di passo nella corsa. Siccome la frequenza di passo nella corsa lavoriamo sempre sui 170, 180 al massimo passi al minuto, anche lì stiamo sugli 80-85 pedalate al minuto come frequenza di pedalata di riferimento. Non andiamo a esagerare la frequenza di pedalata, perché a quel punto introduciamo tutta una parte coordinativa e tecnica che, se sono neofita, mi manca. Invece, per chi è già a un buon livello nella maratona, cosa deve aggiungere per migliorarsi? Cosa deve lavorare per migliorarsi? Ah, bella domanda questa. se tu sei già a un buon livello vuol dire che sei già capace di correre la maratona vicino alle 3 ore, intendi questo come... No, un amatore che corre intorno alle 3 ore 30, magari 3 ore 45. Ah, quindi senso... per te buon livello è 3 ore 30? No, buon livello nel senso per un amatore che 3 ore e corrono, corre solo il 3-4% degli amatori. Vero, sì. Invece per me 3 ore è io dico sempre... tu alleni adesso? No, però dico sempre 3 ore, se sei sotto le 3 ore cominci a correre, se sei sopra le 3 ore, ah, ecco, porti un piede avanti all'altro. Okay, quello che faccio io. Allora, secondo me, l'aspetto più importante per migliorare, quindi se ho un passo gara intorno ai 5 km, cioè 12 km all'ora, per migliorare è la componente di forza. Cioè lavorare di più sulla componente di forza, cioè sulla capacità dei muscoli di tenere tensione e di tenerla per un lungo periodo. E per questo introdurre tutti i lavori che possono migliorare, anche a secco, soprattutto nella fase di preparazione generale, che è quella che fai 3-4 mesi prima dell'evento. E quindi un aspetto importante che potrebbe dare immediatamente un vantaggio è quello di introdurre in maniera razionale i lavori sulla forza. E sulla forza come lo introduciamo? Prima, in fase generale, con dei lavori a secco sulla capacità del muscolo di tenere tensione, e poi con io amo molto utilizzare le salite, però le salite da prima con delle distanze corte, anche sotto i 15 secondi, e poi via via sempre più lunghe. E quindi questo è un aspetto che migliora la capacità di tenere tensione, che è un limite quando dopo le 3 ore è un limite muscolare, cioè non riesco a tenere quella tensione, quindi devo calare l'intensità. E quindi quello è immediatamente qualcosa che mi permette di avere un vantaggio immediato, e quindi, ma anche di un po' di minuti. Sono gli allenamenti che piacciono a me. Grazie a Fabio Vedana. Buongiorno a tutti, allora. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.